le auto precise, abbassi l'interruttore generale proprio quando sto per fare il nome dell'assassino. Tolgo la luce per 5 secondi. Non un secondo di più, il tempo utile perché lasci l'assassino alla sala. Capito? Chiaro sì? Chiaro. Sincronizziamo gli orologi. Fra 7 secondi saranno precisamente le 2:43. Le 2:43? Si deve essere fermato, le 7:46. Sì, sì, 7:46. No, ora sono quasi le 7:47. Sì, va bene, 7:47. Ci sincronizziamo sulle 7:47? Sono le 7:47? No, ho detto che erano quasi. Ora mancano 10 secondi alle 7:47. Io faccio le 7:47 passate. Allora lo rimetto indietro. Va bene. Meno 5 secondi. Sì. 4. 3. 2. 1. Ora. Strano. Quella dei secondi non si muove. Bloccata. Si muove, sa? Cos'è? Sì. Sì, certo, sì. Sai che buffo? Adesso vedo anch'io che si muove. E ora sono le 7:47 e 23 secondi. Va bene, sincronizziamoci sulle 7:47 e mezzo. 5, 4, 3, 2, 1, là. Il mio si è fermato. Si è fermato? Sì. Coincidenza notevole, si è fermato. Senti, prendi il mio. E lei come fa? Continuerò a parlare finché non togli la luce. Ma come? Senza sincronizzarci? Ma fa lo stesso, sta tranquillo, troverò il modo là dentro. Fuoco alle polveri. Fuoco alle polveri. Radio Vomma. Eccoci, buonasera, benvenuti alla 22esima, come direbbe Guido, puntata di Fuoco alle Polveri su Radio Wombat. 22 come? Non ce ne freghiamo, a questo giro ce ne freghiamo, 22 come? Non ce ne frega nulla, lo dirà sul 23 Guido se mai tornerà, perché ascoltando la scorsa settimana, la 21esima puntata di Fuoco alle Polveri, ci siamo resi conto da lontano che eravamo stati licenziati. Ora, io sono qui. Quindi direi che a questo punto il mio licenziamento è rientrato, giusto, direttore? Diciamo di sì. Grazie. Che avete sentito, vero, che lo stipendio è dimezzato. No, dovremmo pagare noi, mi sembra aver capito. Esatto. Giusto, bene. Perfettamente. E io posso anche pagucchiare qualche cosa. Guido, però, come la mettiamo con Guido? Io non lo so, vediamo. Vediamo la prossima. Guido, no, so. Posso dirti che lui continua a cercare di farsi riammettere. Sì. Mandando, tempestandoci di contributi con i suoi detti dal mondo. Certo. E noi chiaramente ci riserviamo di censurarli quelli che vogliamo. Tutto. E forse oggi ne passeremo uno dei tanti, sì, che ci ha mandato. Anche perché appunto ci ha mandati tipo 12, quindi sì, non sappiamo come fare. Così rimettiamo anche a voi la decisione, a voi ascoltatori, la decisione se riammettere Guido o meno. Facciamo sta cosa. Giusto, potere al pubblico, televoto, tutto in linea, molto bene. Sentite ridere, al mio fianco invece c'è il nostro amico Bruge, chiamiamolo così. Ciao amici. Chico. Ciao. Finalmente qui con noi. Viva, il primo lunedì libero, dai, non ci si crede. Molto bene, c'è anche Grippo, il nostro amico Grippo. Yeah. Eccolo. E poi niente, c'è un po' di attesa, ecco, c'è un po' di attesa per tutti gli altri partecipanti, li aspettiamo direi. Senza Siamo dubbio. Pronti, attenzione all'orizzonte personaggi, salve a tutti. Ciao. Dicevo, siamo in attesa dello svolgimento. Potremo mandare una canzone e poi vi raccontiamo una storia particolare. Una storia particolare. Thank you. Mediterraneo, una tavola blu. L'Italia corre in coda lungo i guardrail. Tondono in mare la spiaggia, una folla selvaggia che invoca a gran voce la versione in carne ed ossa delle morti vista in TV. Poi finalmente il barcone affollato ribalta e comincia ad affondare. Gli ombrelloni si gonfiano ad un boato di gioie e di saluti per chi da casa è rimasto a guardare. Il bagnasciuga e naufraghi stesi sprovvisti di crema solare. Da bimbi coi talloni e le mamme coi pareo. Una solleva un istante lo sguardo schifato da donna moderna. Non disturbare il signore, non vedi che dorme. O non trovava altri posti da qui per sdraiarsi. O non è più con un tempo, ci son cani e porci. Sacco di cose strane. Sì. Ah, un po' tu, Kermod. Tirato dal computer. C'è grippo giusto tutto. Un grande musicista e cantante, anche un ottimo tecnico. Un ottimo giocatore. Dei giochini del computer. Bravo, grippo. Grazie. Ora, abbiamo il nostro amico Io sono un cane. L'abbiamo già ringraziato diverse volte. Preferito tra i grandi cantatori sardi del momento, non ne conosco altri. Scusa. E niente, sardo, noi volevamo parlare di Sardegna perché oggi il regista mi ha mandato a un certo punto una notizia bellissima. L'ho trovata la notizia più bella dell'ultimo mese: che praticamente questo branco di pecore, un enorme branco di pecore, un video, ho visto un video dove un enorme branco di pecore invade il parcheggio e le zone antistanti all'ospedale di Cagliari. È bellissimo tutto questo, andate a cercarvelo perché al Brozzo, che è l'ospedale appunto di Cagliari, ci sono questa infinita mandria di pecore che arriva e sconquassa tutto. A me è piaciuto tantissimo e Mandiamo il video. Mandiamo il video. No, no. Tutti gli articoli che ho trovato, appunto, sono di questi. Di un consigliere comunale sardo, anzi regionale, di Fratelli d'Italia, bellissimo partito. Paolo Truzzu si chiama questo tipo. Truzzu, Paolo Truzzu. Esatto. Si lamentò. E di queste lamentele sul degrado in cui vive. Cioè, il degrado lì praticamente è dovuto a questi branchi di pecore. No, non è vero, però lui dice di sì. E mi ricollego a questa cosa della Sardegna, perché nel guardare oggi questo video, poi ho detto, ma chissà che succede a giro. Mi sono andato a guardare un po' di cose. Ho visto che il 28 aprile, cioè tra pochi giorni, ci sarà una manifestazione chiamata da molte sigle, ovviamente in Sardegna, organizzata da Aforasis Basis, che è un comitato che lotta da anni contro la presenza massiccia delle basi militari NATO statunitensi e italiane, ma soprattutto NATO statunitensi, all'interno del territorio sardo. Mi sembra un paio di anni fa ci furono, e anche quest'anno, questo novembre, ci furono le grosse manifestazioni davanti a queste basi e molti scontri, molti arresti. Diciamo, il popolo sardo da tanti anni che combatte un po', che lotta contro questa presenza, che è anche molto invadente, nel senso che un paio di anni fa, appunto, esercitazione dell'esercito israeliano e statunitense, cioè per dell'esercitazione degli aerei israeliani e statunitensi, bombardarono un parco naturale che è diventato proprietà della NATO. Sono delle basi NATO in cui vengono fatte le sperimentazioni sulle bombe lanciate dagli aerei, e tutto questo in un territorio dove a pochi chilometri vivono delle persone. Un territorio bellissimo, completamente recintato, ma è uno spazio enorme di ettari e ettari, che è recintato e che ovviamente chiuso ha chiuso l'accesso. E quindi il 28 aprile, un'altra volta, ci sarà una manifestazione. Poi sono andato a leggermi il comunicato, ma è tutto in sardo, e quindi mi sono ritirato nella mia tana. No, in realtà, se andate a vedere, c'è anche... No, no, è tutto in sardo, incredibile, non si capisce niente. Vedi, puoi vedere, puoi appena vedere. Ok, voi no. Però sotto c'è anche la traduzione in italiano, quindi poi alla fine è facile. E niente, quindi se vi trovate voi, numerosissimi ascoltatori di Radio Wombat, stanziati in Sardegna, potete andare alla manifestazione, okay, o comunque andare a informarvi. Detto questo, io adesso sulla mia scaletta avevo scritto tantissime cose che ancora non ci sono, quindi che facciamo? Mandiamo una canzone? Ma sì, dai. Ma sì, ma che ce frega. To get what I'm after till the day I die. I asked Bobby Dylan, I asked the Beatles, I asked Timothy Leary, but he couldn't help me either. They call me the Seeker. Get to get what I'm after till the day I die. People tend to hate me 'cause I never smile. As I ransack their homes, they wanna shake my hand. Focusing on nowhere, investigating miles. I'm a seeker, I'm a really desperate man. that. I learned how to raise my voice in anger. Yeah, but look at my face, ain't this a smile? I'm happy when life's good, and when it's bad I cry. To get what I'm after till the day I die. Rieccoci qua. Eccoci. Ciao. Oh, allora, siamo qui a combattere e direi che appena siamo praticamente pronti, abbiamo questo duo sfavillante che è composto da nostro amico Fizz, che conoscete bene perché è 22 volte che è già stato qui a suonare con noi, e dal nostro invece amico Ruge, che avete sentito la scorsa volta suonare con Grippo, perché c'era stata una registrazione mandata, e che non era mai stato qui da noi, e siamo molto lieti di averlo. E tra l'altro Ruge, che ha suonato, l'abbiamo sentito l'altro giorno, ossia venerdì, attenzione, in polveriera, suonare con una bellissima mezz'ora, tre quarti d'ora con Arianna, che salutiamo anche. Ciao Ari. Ciao Ari. Ciao. E hanno fatto delle canzoni, uno spettacolo veramente molto bello. Siete d'accordo? Le buche in terra. Le buche in terra. Ma esattamente le buche in terra. Sono una cosa affascinantissima. Mi sono divertito moltissimo anch'io, questo è Eccolo. Vero. Sì, sì, sì, si sì. Sente bene. Davvero? Bello. Molto Boia. Bello. Molto bene. Io coglierei l'occasione per rinvitarti insieme ad Aria. Quivi. Regia. Nient'altro che piacere immenso. Sì. Lancio questo grande appello alla, praticamente alla nazione, per avere Ruggeri Anze. Ora, però Arianna non c'è. La non c'è. E quindi si fa senza, direi. Quando Arianna non c'è, Grippo suona. Viva. Grippo e Vugge ballano. Quindi balleremo, non vedrete niente, cazzi vostri. niente, no, ci tenevamo insomma a fare questo pezzo, spieghiamolo anche perché con questa primavera, sta arrivo dell'estate, queste palline che girano. Cioè noi l'abbiamo già detto. Lei che si va a Ruge, ricordamelo un po' te. Amico mio, c'è soltanto un posto. Il grande fiume. Madonna. Il fiume. Il fiume. Non dite il nome, mi raccomando. No. I fiumi. Anche, il fiume in generale, diciamo. Rivalutate i fiumi e i pozzi d'acqua dolce anziché il mare, amici. Esatto. Ma dato che noi siamo una radio internazionale, we are talking about this in English, and we are talking about this with the words of Bruce Springsteen, with the song The River, che fa più o meno così. I come from down in the valley, what miss you when you're young, bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drove out of this valley down the way the fields were green. We go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we did ride. Yeah, yeah. I got married pregnant, and man, that was so serious. And for my 19th birthday, I got a union card and a wedding coat. We went down to the courthouse, and then the judge bought it all to rest. No wedding day smiles, no walk on the aisle, flowers, no wedding dress. That night we went down to the river, and into the river we dived. Oh, down to the river we did ride. Yeah, yeah, for the Johnston Company. But lately there ain't been much work on account of the economy. Now the things that seem so important, Mr. the finish it right in the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, a body chain and wave down the reservoir. And night on the banks I'll lie awake, I put our clothes just to feel each fresh day. Now those memories come back to haunt me, they haunt me like a curse. Is a dream of life don't come true, or is something worse that sends me down to the river? Though I know that now the river is dry, sends me down to the river tonight. I down to the river, my baby and I. Oh, down to the river. We go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we did ride. Down to the river, my baby and I. Oh, down to the river. Possiamo applaudire? Evviva! Orfani di una chitarra, ma va bene così. Ce n'era solo una, si è fatta un po' così, però... È stato bellissimo. Però ai Fiume ci si va uguale. Che ci frega. Grazie ragazzi, è stato bellissimo. Evviva. È stato bellissimo. Evviva. Anche per noi. E se vi prende voglia di andare al Fiume a giugno e pensate di andare nella zona del Mugello, non andate a Barbiana il 20 giugno perché c'è il Papa. Questo volevo dire anche. Il Papa. Il sì, Papa? C'è il Papa Barbiana, è un piccolo paesino vicino Picchio. Sì, con la Papa Mobile. Ma che ci fa? A Barbiana, dicevo. A farci? A salutare i barbianesi. Possiamo dirla ad alta voce? Beh. Bene. E... adesso, mentre in tutto questo bellissimo a musicare, sono arrivate un sacco di persone qua nel frattempo, tra cui Lillo, Anita, Samir, e quindi siamo felicissimi. Buonasera. Buonasera Lillo, ciao. Quindi io praticamente ho la scelta, posso scegliere cosa chi far. Che bello. E scelgo Lillo. Scelgo Lillo. Vieni Lillino, vieni, mettiti le cuffie. Mettiti le cuffie, avvicinati al microfono, gira il cecchino dopo. Dopo tossi, cacci, marci, tutti. Buonasera. Bene. Sente? Eccolo. A voglia. Ah, postazione nuova. Nuova postazione. Hai preso il posto di Guido. Vorrei dirlo a Guido, che probabilmente ci sta ascoltando. Come fa Guido a stare assieme? Guido c'ha la schiena dritta. È un ragazzo tutto di un pezzo. Tutto di un pezzo. Sì. Bene, ciao. Dicevamo il fiume? No, nulla. Fiume? Sì, fiume, però abbiamo deciso di non dire quale fiume. No, sponsorizzare tutti i fiumi in generale. Tutti i fiumi in generale. E abbiamo detto anche di non andare a Barbiana perché c'è il Papa, basta. Barbiana no, Barbiana no. Sai, è folla. Quando di preciso? Scusa. 20 giugno, non andare nemmeno a lavorare, caro. Perché fanno GP andare. Più Papa. Stanno fanno giugno. GP più Papa, sì. Delirio primogenito. Va sì. Bene. Io non ce la fo a tenere il microfono. Allora, puoi staccarlo se vuoi e giocartelo con le mani. Il nostro tecnico Ruggi ci può dare una mano. Eccolo. Non ce la do. Oh, meglio, grazie. Meglio. Va bene. Eccoci qua. Buonasera. Mancavo da un po'. Guarda, manca... da quanto? Da non un lo po sappiamo. Da due, tre, quasi un mese forse. Addirittura? Sì. Sì. Quindi ci siamo lasciati tutto un altro tempo, tutta un'altra stagione, tutte altre cose da mangiare. Soprattutto. Sì, soprattutto direi. Quello, sì. Poi no? Noi continuiamo a mangiare solo cavolo, però. Solo cavolo. Perché aspettiamo ancora solo arrivare. Cavolo, sì, ci sono gli ultimi cavoli prima di piantare quelli nuovi che si piantano settimana nuova. Sì. I cavoli vanno messi ora. Ah, vedi. Sì, sì, sì. Allora, comunque, appunto, passiamo un sacco di tempo, tutta un'altra stagione. È calduccio, è arrivato il calduccio, diciamo è arrivato, sì. Dai, sì, cominciamo, sì, dai. Iniziamo a ragionare, stare bene sì. Fuori, si può stare a mangiare fuori, direi. Sì, certo, un certamente, picnic certamente, o qualcosa certo. Del genere, così. Certo. Va bene, non so voi cosa appunto, vi portate, picnic, io da un po' di tempo a questa parte, no, non è vero, comunque, diciamo, una ricetta veloce da fare e semplice da... E di effetto anche da portarsi a un picnic. Questo vi propongo oggi. Wow. Vi propongo un'insalata di baccalà. Bacalao, buono. Bacalao, insalata di bacalao, esatto. Buona Lillo. Bacalao o stoccafisso? Certo. Che dir si voglia. È la stessa cosa? No, assolutamente no, niente. No. Sono due cose diverse, nel senso che possono essere gli stessi pesci, ma sono trattati in modo diverso. Va bene? Okay. Il bacalao sono entrambi essiccati sì. Al sole. Sì. Va bene? Però il bacalao viene prima salato e poi essiccato, sì. Mentre lo stoccafisso è semplicemente essiccato non basta. Salato. Esattamente. Okay. E stoccafisso, la parola stoccafisso viene dal termine inglese che è stick fish. Va bene? Fish, okay. Il pesce stecco. Pesce di legno. E effettivamente lo stoccafisso è un, cioè, lo puoi tirare dietro la gente. È di legno, sì. È di legno, no? Sì. E, va bene, comunque. Allora, entrambe le cose. Sempre da ammollare, entrambi. Vanno rinvenuti, naturalmente. Sono secchi e quindi vanno ammollati, vanno tenuti a mollo per, nel caso del baccalà, un bel po'. Tipo? Circa un 24 ore, almeno 24 ore, perché è molto salato e quindi devi metterlo a mollo, poi sciacquarlo, cambiare spesso l'acqua, se no viene una cosa salatissima e immangiabile. Va bene. Lo stoccafisso basta che lo fate rinvenire, quindi è duro. È più tranquillo quando, un po' lo stoccafisso, sì, un po' meglio, più facile, anche più veloce. Meno saporito, però. Ma. Cosa sono? Sono generalmente della famiglia dei merluzzi, sì. Va bene? Naselli, merluzzi. Questi sono i pesci che vengono nordici, utilizzati. Diciamo. Sì, nordici, anche mediterranei. Viene utilizzato anche nel Mediterraneo. Okay. È un pesce molto nutriente, sì. Un sacco di sali minerali, un sacco di ferro, un sacco di calcio, un sacco di fosforo. Benissimo. Molto magro e non molto calorico, tra l'altro. Ok. Va bene. Quindi, io ve lo consiglio, il baccalà, l'insalata, semplicissima. Prendete il baccalà, sì. Bene, lo lessate wow. In due dita d'acqua, quindi lesserà, cioè il tempo di cottura sono veramente 4-5 minuti. Tenete conto che il baccalà, più lo cuocete, più si assoda, bene? Quindi okay. Diventa sempre più sodo, via via. Comunque, quindi a vostro piacere, 4-5 minuti diviene una cosa media. Bene, una volta l'avete cotto, lo sbriciolate in una ciotola. Sì. Io di solito ci grattugio dentro delle carote. Buone. Ci metto dentro fettine un paio di patate lesse, qualche oliva, qualche sì. Cappero. Qualche pomodorino fresco, ciliegino meglio, sì. Prezzemolo, sedano e più o meno quello che volete. E poi ci siamo, più esatto. o meno quello che volete. Certo. Va bene, bagnate con olio, sale, pepe e limone. Anche. Certo. L'avete mettete tutto in tua vaschetta. Tutto nella vaschetta, tutto nel cestino con la copertina con la tovaglia in a quadri. Esatto. E vi andate con la vostra bicicletta, andate al parco a fare la vostra molto bene. Picnic. Con bellissimo. Non so, con chi volete. Con chi volete. Sei contento, Andre? Ti è piaciuto? Oh, yeah. Va bene. Vorrei essere già lì. E invece sei qui, attenzione, e non ti muovi nemmeno. Nulla. Va bene. E, un'altra cosa volevo dirvi. Sì, giusto. Quando si dice, oh, ma sei proprio un baccalà. Sì. Va bene. Che cosa... Non si riferisce in verità al pesce, bensì si riferisce al baccaliere. Il baccaliere è, sì. una figura che svolge un ruolo nei riti religiosi, va bene? E praticamente dice che è questo tipo che quando tutti sono inginocchiati, lui se ne sta ritto in piedi da solo, come un baccalà. Ok. E quindi nel senso è anche baccaliere, un po' sinonimo di star lì, come è lì. Un scemo sì. in mezzo da solo. Certo. Questo, semplicemente. Bello. E quindi è anche un po' il tuo detto del giorno, questo. Sì, può essere anche, tutto sì, insieme. Facciamo che è detto del giorno, bravo, dai, perché non avevo trovato cioè, un granché di carino. Ah, vabbè, dai, mi è piaciuto. Buono. Bella. Ragazzuoli. Grazie, grazie. Ci sentiamo presto, dillo. A biento. Ciao. Ci mandi una canzone, Andre. Mama Mavis, oh mama, they try my patience. Is gone, who is left to save us? We mourn, I'm praying for my neighbors. They say the devil's at work and is calling favors. You say I'm dangerous, I speak for the nameless. I fly with the vultures, I be with them bangers. If change don't come, then the change won't come. If the bands make them dance, then the rain gon' come. Am I passing to the light? And I'm looking to your eyes. All the world is out of your head. You got to die in the middle. If you want to live, change come to pass. You best be ready for it. Something out the country fear is about to change its form. Yeah, it's a shift in time, but I won't get tired. Look into my eyes, mama, tell me what you see. Tell me there's a chance for me to make it off the streets. Tell me that I won't die at the hands of the police. Promise me I won't outlive my nephew and my niece. Promise me my pastor isn't lying as he preach. Tell me that they'll listen if it's lessons that I teach. Tell me there's a heaven in the sky where there is peace. But until then, I keep my peace in arms reach. Am I passing to the light? When I'm looking into mercy's eyes. All the world is out of your hands. Another night. You got to die in the middle. If you want to live, change coming. Hey, you best be ready for it. Something out the country fear is about to change its form. Yeah, it's a shift in time. To the light, and I'm looking into mercy's eyes. All the world is out of your hands. Never die. You got to die in the middle. If you wanna live, change, more change is coming. You best be ready, ready, ready, ready. Be ready. Ciao ragazzi. Ciao Anita. Eccomi anche a me. Scusatemi. Ciao Ani, dicevo. Ciao. Buongiorno. Che facciamo? oggi ho portato Bertolt Brecht. Lui. Dunque, accenno qualcosa su di lui prima. Brecht era appunto un drammaturgo, poeta, regista teatrale tedesco. Durante il periodo nazista fuggì a Parigi, partecipò al congresso internazionale degli scrittori antifascisti nel 1935 e lesse un testo per la difesa alla cultura e contro il nazismo, e per questo motivo venne privato della cittadinanza tedesca. Severo. Vinse anche il premio Lenin per la pace nel 1954 e i temi brechtiani tendono... Perché sei seria te, ok? Sì, perché anche perché stai seria. Dicendo una cosa importante alla fine, cioè uno che comunque sta parlando, che Bertolt Brecht, famoso, importante. Certo. Però noi siamo comunque in uno spirito rozzoso, vabbè. Quindi... Scusaci, dai, se ogni tanto ridiamo. Faccio un po' di cultura. Sì, e aggiungo che i temi brechtiani prendono spesso spunto dalla cronaca. Questioni storico-politiche, viene utilizzato un linguaggio preciso e concreto. E dalla poesia brechtiana è esclusa la figura dell'io, quale... motivo del discorso, e l'io quando esiste è esso stesso parte in causa e oggetto di riflessione e di analisi. Dio o io? Non ho io, capito. Io. Okay, scusa. Io. E niente, oggi ho portato la lode alla dialettica del 1951. L'ingiustizia oggi cammina con passo sicuro. Gli oppressori si fondano su 10.000 anni. La violenza garantisce. Com'è, così resterà. Nessuna voce risuona, tranne la voce di chi comanda, e sui mercati lo sfruttamento dice alto, solo ora io comincio. Ma fra gli oppressi molti dicono ora, quel che vogliamo non verrà mai. Chi ancora è vivo non dica mai, quel che è sicuro non è sicuro, com'è così non resterà. Quando chi comanda avrà parlato, parleranno i comandati. Chi osa dire mai, a chi si deve se dura l'oppressione? A noi. A chi si deve se sarà spezzata? Sempre a noi. Chi viene abbattuto si alzi, chi è perduto combatta, chi ha conosciuto la sua condizione come lo si potrà affermare? Perché i vinti di oggi sono i vincitori di domani e il mai diventa oggi. Fare o non fare, non c'è provare, no, provare no, fare o non fare, non c'è provare, no, provare no, fare o non fare, non c'è provare. Eccoci, senti, c'è sotto Tom Waits, giusto? Boom. Che gioia. Sì. Facciamolo sentire, quello voglio farlo sentire un po'. Abbiamo questa selezione di pezzi che uso per gli sfondi che sono. Oggi io direi... Buonasera, Buonasera, oggi amico, io direi che... Guarda un po'. Bisognerà abituarsi a ascoltare la musica parlandoci sopra. Certo. È una cosa bella vivere le canzoni, anche in una radio, vivere le canzoni in quella fase mediana tra l'ascolto e per il non ascolto. Bravo Nico, che bell'intervento. Grazie. Belle parole, come dicevamo. Bella voce anche, bella bello voce. Anche di aspetto, bello, se mi guardi. Soprattutto bello di aspetto, Nico. Soprattutto. E a questo punto direi praticamente bando alle ciance. Io volevo, vabbè, no, dopo ne parliamo ma dopo. Ma tu c'hai voglia di dire come qualcosa? È? Secondo me dovresti dirla, dovresti no, liberarti. No, no. Vuoi no. aspettare dopo? Forse sì. Ne vogliamo parlare dopo. Faccio dopo. Se volete io sono caldissimo, possiamo. Infatti anche... è per quello, no, ti vedo caldo, ti vedo bollente. Sigla. Vabbè. Sigla. Cos'è che ci buttaste per mamma con tanto amore? Dubbi e sicure. Facciamo andare, come dicevamo. Bella cosa, che gioia che dà. Insomma, oggi si parla di musica napoletana. Ciao a tutti. Ciao, viva ciao, Radio Nico. Wombat e viva Fuoco alle Polveri. Allora, è da l'avevo sei detto, mesi che annuncio. E da quando momento. Ho fatto questa rubrica ero un po' per questo momento. Certo. Ed ero così emozionato oggi mentre pensavo a come gestire questa cosa. Che penso che cioè, sei per fare una cosa seria dovrò necessariamente fare una serie di puntate su questa cosa. E quindi sono arrivato tardi e tutto quello esatto. che volevo. Nel pensare però a questa ho cosa. Sentito il pezzone di Lillo e Lore in pullman. È stato un momento molto cinematografico. Comunque. allora, pullman, oggi vi voglio poi. Attenti, pullman. Oggi no, allora, io ti prometto interlocuzione e anche un po' di attenzione, ma non mi chiedere memoria, va bene? No, no, però grazie. Oggi no, va bene, però grazie. Attenzione e concentrazione. Oh. Allora, oggi si parla di canzone napoletana. Quella che noi definiamo come canzone napoletana, cioè la canzone classica napoletana, ha il suo fulcro, diciamo, temporale in quella parte di tempo che va più o meno dalla metà dell'Ottocento e si esaurisce verso l'inizio del secondo dopoguerra, diciamo. Ok. Più che altro perché si erano perse, cioè si esaurisce nel senso cambia, si adatta alla modernità, ma il momento che noi aureo che definiamo della canzone classica napoletana è quel periodo lì. Mm. Insomma, si dice, si vuole far cominciare questa canzone napoletana aurea appunto nel 1836 con Te voglio bene assai, ah, che okay. non è quella di Dalla, non confondiamoci, no, certo. quella si chiama Caruso ed è dedicata al signorino che stiamo ascoltando qui sotto. Sentite che bello. Uno dei primi cantanti a incidere la sua voce su un vinile, uno dei grandi pionieri, una voce assurda. È diventato famoso facendo Vesti la giubba, è un tipo che faceva tipo, era figlio di operai, lavorò in fonderia fin da piccolissimo, poi un magnate lo prese e gli disse va, canta, okay. e divenne il cantante più importante del mondo, Caruso. Okay. Insomma, si diceva, la canzone napoletana la fissiamo in quel periodo lì, però ha delle radici profondissime, principalmente dal 1200 più o meno, è nata diciamo come negli ambienti alla corte di Federico. Bravissimo. Bravo. Alla corte di Federico, nell'Unina praticamente, nell'università partenopea fondata da Federico II di Svevia. E quindi con questa voglia di fare poesia, con questa voglia di utilizzare la saggezza popolare, una sorta di quella sorta di romanticismo ante litteram che era stato messo al tempo in atto nella corte. Che succede? Nasce la canzone napoletana, va avanti poi in altre forme fino al 600 con la villanella, che è un genere musicale, sono canzoni che alcuni le dicono che siano un po' i predecessori di quello che poi fu la canzone napoletana, ci assomigliano, sono canti melodici, molto duttili dal punto di vista compositivo, potevano essere a una voce, a tre voci, accompagnati o non accompagnati, comunque canto melodico che poi si va sempre più sviluppando e arriva appunto nell'Ottocento, dove inizia quella tradizione che viene detta la tradizione dei posteggiatori, cioè la posteggia. Mi rimetti il sottofondo sotto che mi mette più cuore tranquillità. In mano. Cioè. Sì, sì, no, no, non tranquillità. Insomma, la posteggia napoletana, ovvero se qualcuno di voi è andato a Napoli avrà visto quanti cantanti ci sono in giro con la chitarrina, quelli lì si esercitano, okay. esercitano la sacra arte della posteggia, ovvero del mettersi a suonare in giro e a chiedere gli spicci, insomma. Però i posteggiatori dell'Ottocento erano personaggi importantissimi, perché spesso non solo inventavano canzoni, cantavano, ma soprattutto andavano in luoghi rinomatissimi per corti di regnanti. Certamente, certo. Tra i più importanti, Giovanni di Francesco, detto O Zingariel, addirittura fu preso da Wagner e portato in Germania alla sua corte per essere il suo cantantino. Poi gli scopò la serva. Ma vero? Sì, e lui lo cacciò e lo riportò in Italia. A posto. Un altro, Antonio Silvo, che è il primo che ha cantato questa canzone che stiamo sentendo sotto, che è O Sole Mio, di Giovanni Capurro. Insomma, vabbè, nulla, volevo dire. Vabbè, un altro che è stato questo qui, appunto, certo. Antonio Silvio, che è stato uno dei primi, anzi il primo appunto a cantare O Sole Mio. Un altro, il più famoso, Pasquale Iovino, detto O Piattar, perché faceva tipo, erano tutti comunque riscattati da situazioni di povertà, certo. E diventavano ricchi mendicando e cantando. Diventavano ricchi comunque. Sì, abbastanza ricchi, importantissimi. Certo. Questo tipo qui, tale O Piattar, è stato invitato nel 1892 a New York a inaugurare la statua di Cristoforo Colombo per i 400 anni dell'America. Va bene, sì, okay. Insomma. Ci siamo. Insomma, nel 28 e a Mario nel 1928, ottimo. Infatti, perché finora stavamo parlando dell'Ottocento, okay. Oggi è giornata di canzoni vecchissime. Sì, bello. Tra l'altro, infatti, O Sole Mio è, ve lo dico subito, mi sa del 1873, non vorrei dire, vabbè. Proprio di sì. Comunque, nel 1928 E.A. Mario, che è lo pseudonimo di Giovanni Ermete Gaeta, sì. Scrive la musica di Dui Paravis, che è quella che vi faccio sentire oggi. Vabbè. Che è una canzone che parla proprio di quest'arte del del posteggiatore, della posteggia, cioè del cantante che per si strada. Offre a tutti per strada, che intona canti melodici che risuonano per le vie di Napoli e basta. Sì, che certo. Poi è un po' come dire del mondo. È proprio così. Insomma, scrive questa canzone su testo di Ciro Parente, però non sottovalutiamo, questo Giovanni Ermete Gaeta è un tipone importantissimo, cioè i nomi importanti, tra i grandissimi nomi importanti c'è lui, detto appunto E.A. Mario, poi c'è Salvatore di Giacomo, diversi che poi vi dirò durante la puntata. Insomma, scrive questa Dui Paravis, ma appunto è l'autore di Balocchi e Profumi. Quella fa mamma, solo per te la mia... No, nemmeno, non quella, scusami. Scusate. Mamma, sono tanto felice perché ritorno. Okay. Nemmeno questa. Nemmeno questa, un'altra. Mi confondo, come fa? Mamma, mormora la bambina. Questa? È quella, sì. Bene. Sì, sì, perfetto. È questa, è un'altra. E insomma, è quello che ha scritto la leggenda del Piave. Il Piave mormorava... Okay, è l'autore della canzone di oggi, che appunto è la storia di due posteggiatori, cioè di due... cantanti che lui definisce maestre concertina, napoletani, sì. Che un giorno con la chitarra e il mandolino decidono di andare a suonare il pomeriggio in paradiso. Allora vanno, suonano, San Pietro li apre e dice: ah, ma siete di Napoli, caspita, venite, mettetevi a cantare, perché i napoletani famosi nel mondo per questa cosa. Loro entrano, cantano per tutto il pomeriggio, tutta una giornata, tutti i santi che vanno a sentire questi napoletani in paradiso, fino a che a un certo punto loro si fanno prendere dalla nostalgia di Napoli e dicono: senti San Pietro, io, se permettete, noi vi dobbiamo salutare. E quello gli fa: ma scusate, siete matti, che state dicendo? Non volete rimanere in paradiso? Loro fanno: Napoli è un'altra cosa, è il nostro paradiso. La canzone iniziale finiva con Natu Paravis non c'è sta. Pusil che surrende mare chiare. È nato paraviso, non c'è sta. Okay. La versione di adesso è stata cambiata, censurata dallo stesso autore, che è nato paraviso, non c'è sta, era troppo blasfema. E già i parroci napoletani alle messe dicevano alla gente: non ascoltate questa canzone, ecco, se la sentite per strada cambiate strada, cambiate strada, perché è troppo blasfema. E allora lui la cambiò e disse: o nuestro paradiso che lui là, cioè il nostro paradiso è proprio quello. Ve la faccio sentire, è bellissima, dai. Ragazzi. Dui Paravis. Ah, la canta Murolo, poi ne parliamo. Bella. Dui vecchio professore e concertino no giorno non avevano che fare. Pigliai una chitarra e un mandolino e imparavi se jettano a suonare. Tu per tu, sambia rapita, vo volimmo divertì, si te Napoli trasita e facita ce sentì. Ma bimba fa sentì due o tre canzone ca tutto paravisa da cantare. Sospira, vasa, musica, passione, roba che sulla Napoli si fa. E a sera in paravisa se cantai e tutte le sante iettano a sentì. O repertorio non forneva mai Carmelo solo mio Maria Maria. A San Pie che sti canzone sulla Napoli può fa, ha rapito stu balcone, ha sentito sta città. E sotto sole a luna voi sentite sti voce ca so voce gioventù. E si scendite là non ho credito, voi in paradiso non tornate più. Ma dopo poco da malinconia e vecchia si sentette nei piglia. Soffrivano un poco e nostalgia e a Napoli volettano tornare. Mo San Pie si permettite, noi vavimma saluta, siete pazzi che dicite, non volite restacca. Noi simme nu paese bella e cara, ca tutto tene non se fa lassà, pusilla che sorriente marugliare, o paravisa nuestra chillo là. Ah, scusatemi, c'era la musica alta. Vuoi la musica alta? Poi è vero. Sentiamo, alza, alza. Se questa voce ti sveglia nella notte, pide bene. Mentre ti stringi all'uomo tuo vicino a te, lui sta facendo questa serenata, certo, a una finestra e fa state scetata, si può stare, cioè svegliati. Ah, okay. Se vuoi rimanere sveglia, sì, ma fai vedere a lui che stai ancora dormendo. E poi dice: non andare vicino alle finestre per fare la spia, cioè per guardare chi c'è sotto, perché tanto lo sai che sto cantando io. Alziamo, ora lo dice. Incredibile. Non gli vicino all'asta e fa spia. Perché lui, capito, lui era il suo ex innamorato e adesso lei sta con un altro. Certo. E lui comunque le canta sotto la finestra. È incredibile. Lei saprà. Bellissima. Voce è notte, bello, questa canzone. La stalker, sì. Sì, la stalker. Con romanticismo. La stalker era con un super romanticismo. Certo. Ma col più grande romanticismo della storia. Tutti vorrebbero essere stalkerati in questo modo, certo. Insomma. Allora riprendiamo i ranghi del discorso. Si parlava di Murolo, quello che abbiamo sentito. Spero vi sia piaciuta la canzone, perché è meravigliosa, a due paravisi. Insomma, Murolo, figlio d'arte di Ernesto Murolo, uno comunque dei grandi scrittori e musicisti che facevano parte di quelli che avevano fondato la grande canzone napoletana, appunto in quel periodo che vi dicevo prima. Roberto è il figlio, inizia la carriera, tornato dalla guerra, inizia la carriera da solista. Lui da prima aveva già suonato in altre situazioni. Comunque, la cosa importante che ha fatto Murolo e per cui è proprio un pilastro della nostra cultura in generale, di nazione e di popolo. Nel 56 inizia a studiare la canzone napoletana dal 1200 fino al suo, insomma, ai suoi anni. Sì. Insomma, in praticamente 7 anni, no, nemmeno, non so fare i calcoli. Lascia, sì, 7 anni, 7 anni. Nel 63, sì, edita questo lavoro gigantesco che si chiama Napoletana, l'antologia cronologica della canzone partenopea. Sono 12 volumi, cioè 12 CD, dove lui ha fatto tutto un lavoro filologico e storico dal 1200 fino al suo tempo. Bello, sulle gettino, grandi canzoni napoletane risuonate insieme al chitarrista Edoardo Caliendo. Oh, io vi consiglio vivamente, dove pescate, sono solo voce e chitarra come quella che abbiamo sentito adesso, che fa, sì, parte appunto di questa cosa, così come la prossima che sentiamo fra poco, insomma, appena finisco di dire stronzate. Dove pescate roba sopraffina, veramente sopraffina. Ed è stato soprattutto un lavoro storico, storiografico importantissimo, perché ci ha ridato tutto questo grande patrimonio. Insomma, il pezzo che sentiamo oggi è ancora più meraviglioso. È un pezzo che si chiama Era de Maggio, ed è su testo di Salvatore Di Giacomo. È famosa, però io ve la faccio sentire lo stesso perché è meravigliosa e magari per chi non la conosce può essere una scoperta. Insomma, scritta da Salvatore Di Giacomo. Se vi ricordate, anche se mi hai chiesto che non volevi la memoria, capito, insomma, quando parlammo di Carosone, tempo fa parlammo di Carosone, Carosone ne aveva iniziato a suonare col grande GG Di Giacomo, musicista, sì, batterista, importantissimo, italiano, che poi a una certa ha smesso. GG Di Giacomo, figlio di Salvatore Di Giacomo. Okay. Salvatore Di Giacomo, poeta ottocentesco, napoletano, importantissimo, grande scrittore. Aveva iniziato come novelliere in una serie di giornali napoletani, appunto, partenopei. Dopo un po', diciamo, si avvicina alla canzone, noi lo conosciamo, ha scritto tanta poesia, ha scritto tanto teatro, ha scritto appunto tante novelle, ha partecipato molto a riviste. Quando parlo di giornali parlo di riviste letterarie dell'Ottocento. Certamente. Ne fondò una anche con Croce, mi pare, che si chiamava Napoli Nobilissima, nell'82, nel 1882. Poi si iscrive al Manifesto degli Intellettuali Fascisti, quindi viene di conseguenza eletto accademico dell'anno nel 29. È stato sempre abbastanza riconosciuto come poeta, ha scritto delle poesie meravigliose, anche qui ci sarebbe da andare a leggerle perché sono bellissime, però fra poco ne sentiamo una messa in musica in una maniera fantastica. Però comunque era sempre poesia dialettale, cioè parliamo comunque dell'inizio del Novecento, c'è una volontà unificante anche solo dal punto di vista linguistico in Italia molto forte. E infatti Benedetto Croce, amicone, lo difese a spada tratta in un articolo sulla Critica in cui cercò di dire: guardate che comunque Salvatore Di Giacomo, un grandissimo poeta, è riuscito a fare poesia tout court, a comprendere l'utilizzo del verso e, insomma, a creare tutta quell'idea, okay, di spirito che aveva lui. Non importa che parli in napoletano, la lingua è un fattore secondario, bla bla. Vinse così, insomma, nel senso divenne un poeta abbastanza riconosciuto. Inizia a scrivere canzoni, ho scoperto, perché lo mettono in contratto con appunto questo Mario Costa, che è il musicista della canzone che andiamo a sentire adesso. Per il semplice motivo che il direttore del giornale per cui in quel momento lavorava Salvatore Di Giacomo voleva contrastare Funiculì Funiculà, che era stata scritta da Peppino Turo, mi pare, sì, Turo, pochi anni prima. Questa canzone che andiamo a sentire adesso è dell'85, quella era uscita tipo nell'82. Davvero? Sapevi che... Sapevi? Vedi? Sapevo perché Funiculì Funiculà è stata la primissima canzone a fare il boom di editoria, perché riuscirono a vendere 1 milione di quelle che erano le copielle. Ti ricordi cos'erano le copielle? Era dove si stampava il ritornello della canzone. Ancora bello, il popolo non si poteva permettere Ma perché non hai fatto te il mio ruolo finora qui ad interlocutore di Nicco? Aspettavo il momento di Funiculì Funiculà. Ok. Sarebbe infatti le copielle è cosa fondamentale per quello che si diceva prima dei posteggiatori. Questi andavano in giro con la chitarrina, lasciavano le canzoni che scrivevano loro, che riarrangiavano, cui mettevano. È un lavoro molto simile a quello dei rapsodi degli aedi greci, no? Della canzone veramente popolare che passa di mano in mano tra i virtuosi. Insomma, bravi tutti. Era de Maggio, Io quasi quasi ve la tradurrei, però non voglio rovinare la bellezza di questa cosa bellissima. Allora ci risentiamo. Ve la leggerei anche, ma anche lì non voglio fare troiai con la lingua. Aspettiamo. Con la lingua, nel senso, napoletana. Certo. Ve la dico brevemente. Dici un altro. Lui dice, era di maggio e ti cadevano addosso a schiocca, le cerase rosse. Cioè a grappoli le ciliegie. Fresca era l'aria e tutto il giardino profumava di rose a 100 passi, cioè per una lunga zona, insomma. Era di maggio, insomma, io me lo ricordo, una canzone cantavamo a due voci, fresca era l'aria e la canzone dolce, più il tempo passa e più me ne ricordo, non me ne scordo, insomma. Cioè, c'è stata un'invasione di campo all'interno della radio di un piccione. Ma c'è il piccione? C'è un piccione, io lo vedo bene, allora, lo vedo bene. Aspetta, devo annunciare una cosa. C'è un piccione che vive nella redazione di Fuoco alle Polveri. Basta, andiamo avanti, lo sapevamo noi già. Grazie. A noi fa piacere, è una bella presenza, una bella presenza. Scusa Nico, vai pure. Insomma, e questa canzone che loro cantavano a due voci diceva: cuore, cuore, cuore mio, lontano vai, tu mi lasci, io conto l'ore, conto le ore, chissà quando tornerai. Io diceva, tornerò quando tornano le rose, se questo fiore torna a maggio, pure a maggio io sarò tornerò. Qui. Tornerò, ok. Questa qui è principalmente. Bellissimo. Nella seconda strofa lui ritorna, ritrova lei e gli dice, sono tornato, come è tornato questo fiore, insomma, fai di me quello che vuoi. A quel punto. La sentiamo, ma è la canzone degli innamorati in assoluto. Poi l'hanno cantata in 2000, però Murolo con la sua chitarrina stronza è una cosa che non si eguaglia. Quindi dai, sentiamocela tutta. Era de maggio te cade a ronzine, a schiocca li cerase rosse. Fresca era l'aria e tutto lo giardino adorava de rosa a 100 passi. Era de maggio, non me ne scordo, una canzone cantava ma due voci. Chi il tempo passa e chi me ne ricordo. Fresca era l'aria e la canzone dolce. E diceva, cora, cora, cora mia, lontana vai, tu me lassi a conto l'ora, chissà quando tornerai. Rispondeva, tornerai, quando tornano le rose, si stucciore tornano a maggio, pure a maggio stunga qua. Si stucciore tornano a maggio, pure a maggio stunga qua. Sono tornata e mo come una volta cantammo insieme la canzone antica. Passa il tempo, il mondo si vuota, ma amore vero no, non vota via. Tutte bellezze casa mia m'annammurai, si dà ricuore d'annanza la fontana. L'acqua alla tinta non si secca mai, è ferita d'amore, non si sa. Dico cora cora cora mia, tornati io so, torna maccia, torna amore, fa da me quello che vuoi, torna maccia, torna amore, fa da me quello che vuoi. Questa nota malinconica finale, forse perché per qualcuno lei alla fine non ci sta più, insomma. Lei quando ritorna lui dal viaggio, non, probabilmente dalla guerra, chissà da dove, lei forse non ci sta più. Eppure dice che è una canzone che cantavamo a due voci, però boh. Cioè, cantiamo insieme la canzone antica, dice, anzi. Vabbè, comunque, super bello. Oh, spero di avervi emozionato abbastanza oggi, perché io lo sono tantissimo, sì. Nonostante mi sono dilungato un po'. Ma quindi continuerai nel tempo? Io penso che la prossima volta altre due le riporto, perché abbiamo delle carenze che vanno, certo, vanno colmate, assolutamente, direi. Insomma, un grande bacio, godetevi questo sole magico napoletano. De Maio. De Maio. Nuvas a tutte quinte, e ci arsendame la prossima volta, insomma. Ma non è, questo non è napoletano, questo è abruzzese. Giusto. Un bacio a tutti, viva Fuoco alle Polveri, viva Radio Wombat. Viva. Cazzo, cazzo. Dai, ciao. Ciao. Dubiezzi core. Bello, molto bello. Che dite? E non rispose nessuno, vedi? Mi voglio più attenti. E che dobbiamo dire? Cioè, io non volevo ripresentarmi, no, infatti, subito, volevo fare quello che era scomparso. Doveva stare zitto, infatti. E no, è stato bello, è stato veramente molto bello. Lo aspettavamo da tempo questo momento su Napoli e sulla canzone napoletana. E noi andiamo avanti, è tutto molto strano e confuso, ma andiamo avanti. Io volevo dire due cose. Uno, che c'è un po' di vento la settimana. Dai, piccoli. Dai, vediamo cosa, se riesco a ricordarmi qualcosa. A parte ce l'ho scritto. Aspetta. Bravo, prendila. Il segno. E allora, domani è il 25 aprile, quindi fate quello che cazzo volete. State bene, festeggiate, fate quello veramente che volete. A Firenze c'è la consueta giornata in Piazza Santo Spirito. E boh, sono dei piccoli, che bello, che sorgono dalla redazione. Che bello esserci, però se non parlate esserci. Nel microfono non, la radio non funziona. Non scherziamo, dicevo, esserci. Bravo, Ruggia. E poi il giorno dopo, che è mercoledì 26, ci sarà in Polveriera dalle 18:30 la prima, cioè, allora, noi diciamo tre volte quando è l'incontro di Ribellarti, e l'abbiamo sempre detto durante tutte le settimane, perché possiamo ammetterlo finalmente, partecipiamo e ci piace tanto questo progetto. E mercoledì ci sarà una riunione apposta organizzativa per Inchiostri Ribelli, il bellissimo festival che colora questa città in realtà da diversi anni. Dall'anno scorso si muove tra i diversi spazi sociali che hanno voglia di ospitarlo, questo festival. Quest'anno si svolgerà tra il primo, quindi primo 2 giugno, 1 giugno, 2 giugno, 3 giugno, 4 giugno. Giugno, bella. In Polveriera, all'Emerson, in Viale Corsica e in Via del Leone. E in Via del Leone. Quindi poi vi aggiorneremo con infiniti dettagli fino alla nausea. Nel frattempo, se vi va di partecipare a un'assemblea pubblica chiamata apposta per la organizzazione di questo festival, quindi se volete proporre la vostra arte, il vostro... vostro savoir-faire. Il vostro savoir-faire anche, sì. Il vostro charme anche. Le vostre skills. Le vostre skills. Potete presentare tutto. Venite, vi presentate. E no, in realtà è appunto è un incontro aperto. Quindi facciamo sono un colloquio, proprio... vi diamo un voto. Esatto, non volevo far passare questo. Invece, ok. No, è molto partecipativo, nel senso che qualsiasi cosa che ci venga proposta, se è inerente a quello che vogliamo fare con questo festival, lo prendiamo, insomma, siamo contenti. Il festival si muove tra tutte le arti, era un festival che era iniziato con i tatuaggi, continua a occuparsi anche di tatuaggi, ma insieme ai tatuaggi c'è la scrittura, il fumetto, la pittura, il disegno, tutte... ma anche la musica poi alla fine, quindi... ci sarà sicuramente a contornare, certo, gli eventi. E quindi niente, mercoledì 18:30 Polveriera, assemblea pubblica, partecipate. Comunque sappiate che dal 1 al 4 giugno ci sarà il festival. Poi altre due cosine si dicono? Si dicono, dai. Il giorno dopo, il 27, ci sono due giovedì, il 27 ci saranno due eventi, quasi paralleli, però potete farli anche tutti e due. In Viale Corsica c'è una presentazione di un tema, nel senso che da diverso tempo anche il collettivo No Borders Firenze organizza delle iniziative su quello che sono i CIE, Centri di Identificazione e Espulsione. E appunto giovedì 27 dalle 18 ci sarà una nuova iniziativa e una presentazione del libro CIE e complicità delle organizzazioni umanitarie di Davide Cadeddu, a seguire aperitivo e musica e concerti, quindi partecipate. Invece in via riprendere fiato in via Luca Giordano, allo spazio IAM, ossia il Kulanka, giusto? Faccio tutto da solo. Jackson Pollock. È vero, ci sono i Jackson Pollock che abbiamo sentito in Polveriera pochi giorni fa e sono stati fortissimi, ragazzi, sì, di Bologna, veramente gasanti, sì, e li andiamo a risentire. Poi dopo ve lo metto un pezzo. Sotto il sottopasso delle cure. Sotto il sovrappasso. Bravo, esatto. Al sottopasso delle cure. Esatto. Sì. E alla pescaia. Urlano alla pescaia. Alla pescaia. In mezzo, niente. Andiamo avanti. E niente, io non volevo dire nient'altro di queste cose qua, mi sembra, di questi eventi. Poi, però, se ce ne sono altri lì, già abbastanza interessanti, questa cosa sembra, di poi... Chiostri Ribelli e appunto Ribellarti, certo. E appunto i No Borders, sì. E poi anche questo concertino simpatico, sì, di Jackson Pollock, tra l'altro anche un set sound dell'Emerson, direttamente dall'Emerson. Ah. E quindi bello, super bello, ancora meglio, bello. Poi lo spazio è molto figo lì, il Kulanka, si chiama Kulanka. Okay. Sì. Okay. Allora colgo l'occasione, dai, per sentire, esatto, un pezzo di questi Jackson Pollock, che sono un duo, sì, batteria e chitarra, batterista che canta, cantante, e il chitarrista che fa un casino della Madonna, sono spettacolari, mi sono... Sì, forti. E lei canta pure della Madonna, cioè super bravo, canta male, davvero bravo. Pronti via. Dai. You are the way, the fucking truth. war coming down between my breast and mine. I don't want no war going down tonight. Eccoci. Fortissimi ragazzi, fortissimi il gruppo. Evviva, sì, è stato bello, comunque è stato un bel venerdì, dai. Alla fine appunto Jackson Pollock più Rouge più Arianna più Three Faces che ha letto le... ha fatto leggere più che altro i racconti che erano raccolti nella loro nuovo numero della rivista Streetbook. Bella serata. Ora noi andiamo avanti ricordandoci di quel che fu lo speaker che stava qui accanto a me ai tempi di Radio Wombat. Un piccolo un secondino di silenzio. Un secondo di silenzio. Ok, diamoglielo. Aspetta, il silenzio. Riproviamolo. Riproviamo un minuto di silenzio. Due, tre, un secondo. Vai. Ok. Ok. Il pubblico, dopo l'appello di Andre prima, ha votato perché venisse mandato soltanto un detto dal mondo. Di nostro amico Guido che ce l'ha mandato tanti. Non è vero, tutto questo non è assolutamente vero, scusate. Il detto dal mondo l'ho sentito ma non mi ricordo assolutamente più da dove viene, ma la soave voce di Guido ce lo dirà sicuramente, anche con una sorpresa rispetto a quello che avevamo mandato la settimana scorsa, e quindi direi che possiamo sentire. Che ce lo possiamo sperare, meglio. E rieccoci qua col consueto appuntamento dei detti dal mondo. Continuo, pur essendo stato licenziato, a portare il mio apporto a Radio Wombat, in particolar modo a Fuoco alle Polveri. E quindi saluto tutti i wombati e tutti i fuochisti delle polveri. Cosa succede? Fondamentalmente ormai avete imparato che la mia rubrica non è mai uguale. Non è mai uguale. E fa sempre acqua a tutte le parti, però comunque non è mai uguale, quindi non vi annoio. Oggi, non essendoci, vi dico, ho scelto alcuni detti, principalmente uno degli indiani d'America, però non gli indiani d'America in generale, ma una tribù in particolare, ossia la tribù dei Creek. Ah, ma certo! Tribù dei Creek, perché ho scelto questa tribù, ve lo dirò più tardi. Qual è il detto, il proverbio di questa tribù dei Creek che vi voglio raccontare oggi? Ve ne dico una in particolare. Faccia sognare. Che dice così: non ereditiamo la terra dai nostri antenati, ma la prendiamo in prestito dai nostri figli. Sembra un messaggio registrato. mentre uno dei più famosi, sembrava giusto dirlo, il celeberrimo toro seduto, per chi non lo sapesse, capo della tribù dei Sioux, che combatteva aspramente gli europei. Tra l'altro consiglio a tutti gli ascoltatori di andare a leggersi la storia di tutte le tribù americane, perché sono tutte uguali, nel senso che tutte sono diverse culturalmente e c'è un sacco di cose veramente fighissime, devo dire fighissime, ma finiscono tutte nello stesso modo, arati dagli europei. Mamma mia, noi abbiamo trattato anche però anche insomma con Lorenzo e tutta la redazione abbiamo trattato dell'oleodotto, del gasdotto di Trump, no, l'oleodotto è un oleodotto di Trump in Dakota, insomma, se non ve le ricordate, ritornate indietro a cercare i vecchi podcast, sì, guardate nelle scalette dove ne abbiamo parlato e andate a sentirvi quello che abbiamo raccontato. Cosa diceva Toro Seduto? Solo dopo che l'ultimo albero sarà abbattuto, solo dopo che l'ultimo lago sarà inquinato, solo dopo che l'ultimo pesce sarà pescato, voi vi accorgerete che il denaro non può essere mangiato. Una semplice verità, potrei dire severo ma giusto. Perché dicevo, qui chiudo e finisco il mio intervento di oggi, perché dicevo che volevo parlare dei Creek. La tribù dei Creek, che abitava la Georgia e l'Alabama, e Creek vuol dire fiume, torrente, infatti quello sono posti il fiume molto di San Creek, quello... ricchi, sì, di torrenti e fiumiciattoli. Ma certo, hanno, certo, avevano una festa particolare, sì, sì, la festa del perdono. La festa del perdono che fondamentalmente si svolgeva tra luglio e agosto, quando il mais era maturo. E fondamentalmente si faceva qualcosa per favorire la rigenerazione dell'universo, nelle forme di vita. Quindi si faceva la festa del perdono e si perdonava qualsiasi cosa. Tant'è vero che c'erano coloro che avevano commesso dei crimini o qualcosa per cui la gente ce l'aveva con loro, sì, si nascondevano, queste persone si nascondevano nei boschi, diciamo, uscivano quando si faceva la festa del perdono e venivano perdonati di ogni cosa di cui erano accusati. Tutto era finalizzato veramente alla completa purificazione del villaggio, quindi questo perdonare era per purificare, non finiva lì, perché avevano queste varie erbe, un infuso di varie erbe chiamata pozione nera. Ora non ho, poi non provo neanche a pronunciare il nome. Ragazzi, la pozione nera è bella. Click, che andava bevuto durante la festa, era un potente emetico grazie al quale si purificavano il corpo. Potente emetico. E poi fondamentalmente appunto danzavano e festeggiavano tutti insieme, tutti perdonati, ale ale ale. Perché vi dico questo? Perché mi dovete assolutamente perdonare, cari ascoltatori. Perché la volta scorsa io ho detto che la parlata della mamma di Giulia era albanese, non è vero, ma era bulgaro. Probabilmente qualche albanese se ne è accorto, qualche bulgaro se ne è accorto, si è offeso, vi chiedo scusa, perdonatemi. E niente, però continuate lo stesso a sentire Popolo le Polveri, perché è una meravigliosa trasmissione. Tornerò presto a farvi sentire. Vi lascio con un pezzo, la fine del pezzo Ayahuasca di Intone, che concluderà questo momento mistico. Ciao a tutti, Wombat. Wombat. Grazie Nico. Allora, io penso, signori, che fra poco vi lascio perché voglio andare a vedere il piccione della redazione. Allora, c'è questa situazione che è veramente bellissima. C'è un piccione che ha fatto il nido qua. E è divertente, ovviamente, perché tutte le volte che qualcuno entra e esce si può anche prendere un infarto, perché c'è questo piccione che sta fa costruendo... gli assalti, no, e che ha costruito il nido. Perché tutti i piccioni in realtà sono dei gangster. Guarda, basta guardarli come muovono il collo, esatto, quando camminano. È vero. È proprio quella cosa. Oh yeah, yeah baby. Yeah. Yes. Esatto. E quindi può diventare anche un, diciamo, una compagnia fissa oppure un problema. Dobbiamo soltanto deciderlo. Lo libereremo. Io direi libereremo. Che compagnia fissa mi piace. Piace. Cioè, comunque lui ha scelto così. Noi. Lui ha scelto noi, ha fatto il nido qua. Che fai? Che respingi? La hatch? No? Cioè. Se no, sei tutto chiacchiere e distintivo. Ora, a nostra discolpa, io direi che comunque sarebbe anche opportuno che si presentasse all'assemblea. A questo punto, se decide davvero di far parte di questa situazione, beh, è la responsabilità. Quindi, piccioni, autogestitevi, però con serietà. Autodeterminatevi, piccioni. Con serietà. Detto questo, no, siamo troppo sul ridere. Invoco un po' la presenza di Markab, il nostro amico Markab, che non c'è. Però la prossima volta o quando tornerà, magari ci può parlare un po' di quello che sta succedendo in queste ore a Parigi e in tutta la Francia, dopo la chiusura dei seggi del primo turno delle elezioni presidenziali in Francia, che abbiamo tutti visto come sono andate. Quindi ci sarà un ballottaggio tra il candidato di En Marche o Marché, Marchino. Marche. Che è Emmanuel Macron e invece Marine Le Pen del Front National. Questa è appunto la situazione. E ci sono state durante tutta la notte delle manifestazioni e dei conseguenti scontri con la polizia di manifestanti appunto in tutte le maggiori città francesi. Mi ricollego a Marcavo perché l'ultima volta aveva parlato del Nuit Debout. Sì, sì. E stanotte hanno già nominato questa notte Nuit de Barricade, perché l'appello era quello di costruire un'enorme barricata a Parigi in Place della Bastiglia, mi sembra, sì, Place della Bastiglia, per, diciamo, rappresentare il proprio la propria barricata contro una Francia divisa tra un... cioè in realtà divisa in tanti 20%, però poi al ballottaggio sarà divisa tra l'ultradestra nazionalista della Le Pen e un europeismo liberista centrista di Macron, quindi non una buona situazione. E niente, potremmo a questo punto, io so che Pizzo ha una storia interessante però molto datata, è vero, prima l'ha detto, sul su una situazione particolare se è avvenuta in America. Lore forse ci suona una canzone. E noi mandiamo una canzone così di sottofondo. E dai. E poi vediamo un po' come cosa vi regaliamo. Dai, via. Aspetterò se un giorno cambierai. Insieme a te vivrò. Cambierai. Ancora, yeah. Sì, c'è sempre questo. Yeah. Pezzo punk che piace tanto a Marco. E poi Nico. E da un po' non era in regia, ora la metto sempre. Solo dopo punto lo mettiamo. Sembra una voglia matta di fare un pezzo anti-punk, cosa diventa anti-punk, per andare contro. Ma non tanto perché il punk. Allora, alzati e dai. Ok, prima allora il nostro amico Grippo nei suoi archivi enormi ha ripescato questa notizia importante che adesso verrà a raccontarci. È un po' tipo... Sì, ve la volevo raccontare perché insomma, io sono abbastanza appassionato di disagi americani, cioè di uomini americani ai quali va tutto male. Cioè, tempo fa scrissi una canzone su un tipo che si era preso 7 fulmini in testa senza morire e poi si era andato a suicidare per amore, cioè Guinness World Record per fulmini in testa senza morire. Sì. Oggi andrò a parlare di Marvin John Heemeyer, questo tizio del 1951, nato in South Dakota, abitava a Granby, Colorado. Allora, cosa è successo a questo Marvin John Heemeyer? Questo è un fatto del 2003, però Facebook, lo ammettiamo così, lì, ho trovato questa notizia qualche tempo fa, una notizia non molto diffusa all'epoca, non molto diffusa adesso, però che mi ha fuocato un sacco e sono convinto che fuocherà anche Radio Wombat. Allora, questo tizio in questo paesino, Granby, Colorado, un paesino, dice, abbastanza turistico vicino a Denver, aveva un campo, si era comprato un campo sul quale poi aveva costruito la sua attività, una piccola officina. E niente, questo campo aveva una caratteristica, che non ci arrivava nessuna strada, quindi lui per arrivare al suo campo doveva passare dai campi adiacenti, che erano tutti del comune, diciamo, inizialmente. Cosa è successo? Negli anni il comune ha svenduto questi campi, li ha venduti a varie altre aziende, e c'è stata fatta un grosso cementificio accanto al suo campo, e sì, praticamente questo Marvin non ha più avuto accesso al suo campo. Ha fatto varie domande perché affinché gli fosse costruita una strada per arrivarci, niente. Si è proposto di costruirla lui stesso la strada, si era messo lì, aveva comprato un bulldozer, aveva comprato un po' di roba così per costruire questa strada. Nulla, non gliel'hanno fatto fare. Allora che è successo? Lui ha aspettato. Dopo un po' gli hanno chiesto di vendere il suo campo a prezzi ridicoli, lui ha rifiutato, alla fine gliel'hanno espropriato per una cifra ancora più ridicola. Però questo Marvin proprio gli è rimasta proprio sul gozzo sta cosa, e allora il bulldozer che aveva comprato lo ha corazzato. Ci ha messo, allora, uno strato di una... Salvini. No, aspetta. Ci ha messo uno strato di acciaio, dopodiché ci ha fatto una colata di cemento alta un metro e un altro strato di acciaio sul bulldozer, sopra, sì, questo bulldozer. E come ci entrava? Ha creato questo kill dozer, che l'ha chiamato, un bulldozer assassino praticamente. Lui ci si è saldato dentro a un certo punto, cioè ha saldato il portellone, si è messo dentro. Questo bulldozer non si vedeva niente, immaginati una cosa con una sopra palla un gigascudo fortissimo. Ci si è saldato dentro e è andato a fargliela scontare a tutti quelli che gli avevano rotto i coglioni per il suo campo. Quindi è andato e ha distrutto, cioè, vi faccio un po' l'elenco perché è divertente: il municipio l'ha distrutto tutto, di tutto ciò non ha ucciso nessuno, ha distrutto la stazione della polizia con tipo 200 macchine, una cosa del genere. Che grande, non gli hanno fatto niente. Aspetta. Ha distrutto. A suonare? Ha distrutto la casa del sindaco. Ha distrutto la casa di vari altri membri della giunta. Così. Ha distrutto di tutto: centri commerciali, il cementificio davanti al suo campo. Ha distrutto tutto e nessuno ha potuto fare niente. Gli hanno sparato un sacco. Cioè, sono arrivati prima tutta la polizia, gli ha sparato addosso con mezzi, diciamo, convenzionali. Ok, alla fine è arrivato addirittura un elicottero Apache e gli ha tirato addosso un missilone che non gli ha fatto niente. Lo stesso. Ma che grande! Sono arrivati a un certo punto che gli avevano sparato addosso di tutto e la cosa, il missilone più forte era troppo forte da lanciargli addosso, perché cioè, distruggeva la città. Avrebbe distrutto quello, la città, quindi non c'era verso di fermarlo, e questo pa, ha devastato tutto. Ma non tutto. Non a sfregio, solo quelli che gli avevano rotto. Quelli che gli avevano rotto il cazzo, esatto, che cioè grande. Li ha presi uno per uno, ha fatto la sua lista così, ha fatto delle grandi registrazioni, cioè ha preso un registratore, ha registrato tutti i suoi motivi per cui andava a fare questo e ha detto una frase che è rimasta poi nella storia: spesso anche le persone ragionevoli devono fare cose ragionevoli. Ah, okay. Insomma, alla fine poi è stato bloccato. Non è del Che Guevara questo. No. L'ha forse detto, sì. L'ha detto, citato. Ha citato Che Guevara. Che ha citato, ne so. Può darsi. E niente, alla fine è stato chiuso da un altro mezzo, cioè ci sono andati dietro tipo con un caterpillar e lui stava distruggendo un centro commerciale, questo caterpillar l'ha chiuso e lui niente, trovatosi braccato così, prima di farsi venire a prendere, si è ammazzato ovviamente. No! Brutto finale, bruttissimo finale, però ci hanno messo... No, cazzo, ma perché? Dovevi farti la galera, saresti stato un grande certo, eroe. Infatti, ok, però un'altra cosa... Un breve manuale su come si costruisce il caterpillar l'ha lasciato, oltre alle testimonianze. No, però si sa, cioè nel senso, cioè, si ha sa, lasciato la possibilità. Ancora nessuno sa come fermarlo, tra l'altro, un killdozer. Non credo si siano aggiornati per fermare il killdozer. Quindi, volendo, se qualcuno si vuole sacrificare, può distruggere tutto. Che maestro, senza che problemi. Vabbè, ma poi non sei costretto. Ci hanno messo, tra l'altro, cioè, 12 ore, magari per 12 10 ore a tirarlo fuori, quindi immaginate te come cazzo si era piantato lì dentro. Vabbè, però in effetti si era saltato dentro, quindi forse si uccideva davvero. Cioè, forse tanto poi gli sparavano lo stesso, cioè se riuscivano a aprirlo, gli sparavano, di sicuro. Sono americani. Ma se lui usciva da solo, la facevano sicuramente tamarra. Usciva, non ha ucciso nessuno. Ferma il bulldozer, apre la porticina, eccomi qua, prendete i portieri. No, la porticina non poteva essere aperta, si è saldato dentro apposta. Si era saldato United dentro States apposta. We like so vabbè, much, comunque è andata così. Marvin Heemeyer e il Killdozer. Bella storia. Bella storia. Purtroppo questo. Questo finale è un po' tragico. Finale tragico. Questa storia luminosa, direi. Una storia luminosa. Sì. Beh, appunto, datata, però sempre contemporanea sì, interessante. Ma come tutte le storie, insomma. Certamente, infatti. Io non so voi, ma questa storia di revancia, insomma, mi ha messo proprio la voglia di ascoltare la musica. Bene. Io buono. Mi sembra che siamo nel posto migliore. Ora, c'è il nostro amico Rugge che forse ci voleva fare una canzone. Io proprio a quello alludevo. E lo so, però nel frattempo che lui si allestisce, possiamo intrattenerci con delle amabili chiacchiere da bar, come è nostro solito, oppure no, va bene. Amabili chiacchiere a bar? Sì, chiacchieriamo del più e del meno. Del più e del meno. Se no, in realtà vediamo. Perché io se no, altrimenti finisco sempre a parlare della cacca, eh? No, nella cacca no. Delle altre cose no. No, salutiamo un po' chi non c'è stato oggi, magari. Noioso. Che palle. Forse a quel punto meglio una canzone. La Formula 1 no? La Formula 1? Brevemente. A sorpresa. Una pillola. Ah, ma c'è stato il Gran Premio, no? No, no, no, non, c'è non stato il Gran Premio, c'è stato il MotoGP. Va bene, parliamo solo di una cosa. Sì. L'hanno acchiappato, ragazzi. L'hanno acchiappato. A chi? Hanno acchiappato Vijay Mallya, il patron della Force India. Ah, no, davvero? L'hanno acchiappello. Bello. Giusto. Giusto. Se l'era sfangata dappertutto, bancarotta fraudolenta, scappato in Inghilterra, li protegge. Sì. E però alla fine niente, è arrivata l'India, preso? Gli ha detto all'Inghilterra bisogna che ce lo metti in gabbia, ah. E l'hanno messo in gabbia. No. Peso. Però è di nuovo fuori, attenzione, aia. Perché ha pagato un mega riscattone, certo. Come si dice, no, non riscatto, quella roba. Cauzione. Ha pagato la mega cauzione. E adesso Vijay Mallya è lì in attesa di giudizio. Ok, però niente, quindi non è un casino per però. La Force India, no, in verità, non butta bene, c'è quella rosa, ce lo ricordiamo, dove certo. Corre il nostro Perez. Sì, ma infatti ci stava anche abbastanza simpatica alla dottore, fine, ma sta detto, anche andato tutto forte, bene tranne il patron, anche... e, sì, però è un casino questa cosa. È un po' un casino, vediamo un pochino che succede, comunque questo qua ora va in gattabuia. Ma tra l'altro non c'era... No, l'altra volta io non c'ero, quindi non si era potuto parlare, ma avevi raccontato un sacco di cose, mi ero gasato. E... Però non mi ricordo più che domande ti volevo fare, quindi direi. Beh, ne avevo tante, ma mi preparo la rubrica per la prossima. Sì, no, no, certo, ma sì, infatti era una pillola. Dei cenni storici simpatici, mi ricordo. C'ho una perlettina su James Hunt tutto attorno. Sì. Bel personaggio, James Hunt. No, un pilota, attenzione, te lo dico, McLaren, secondo me, dei tempi andati. Anche McLaren. E anche. Che poi? E prima una scuderia di cui parleremo nella prossima rubrica. Bello. E non parleremo niente, di altro. Ma perché ho visto un film in realtà su questo ti ricordi un tipo un po' ciccione che faceva un po' il magnate all'inizio della carriera di Cinzanti sì. In quel quello film. Che assomigliava a Armando Vita quello sì, che andava sì, in giro sì, con le donnine sì. Parleremo di quel soggetto niente da non male dai bello membro sono della sono Camera molto... dell'Ordine Inglese a proposito vai. sì un personaggio in corso, poi ne parliamo. Va bene, siamo molto curiosi. Quindi la prossima settimana, molto probabilmente, non lo sappiamo, perché la prossima settimana è il 1° maggio, dobbiamo aprire un ampio dibattito su quello che vogliamo fare. Non sappiamo se ci saremo, perché forse non lavoriamo. Io direi di no. Beh, lo faremo sapere. Ci pagano, quindi abbiamo diritto. È vero, quindi forse non è proprio un lavoro. Pensiamoci un attimo. Ci penseremo. Io sapevo questa faremo storia sapere. Di Padre Pio che la domenica andava in giro per il suo paesino e picchiava le donne che cucivano perché la domenica non si può lavorare, anche le inseguiva con un bastone. E il sabato prima andava con i carracci fascisti a picchiare i sindacalisti. si sa, Padre Pio era un violentone. Padre Pio era un pazzo, era un violentone. Cioè. Però comunque faceva questa cosa e bisogna prenderne spunto. A me stanno sul cazzo gli esercizi aperti il 1° di maggio. Certamente. Anche a me. Sì. Quindi possiamo, però noi non è che stiamo ma fra a lavorare. Sappiamo che c'è. Ho scoperto che c'è una reliquia di Padre Pio a Firenze. Bella. Nella chiesa di San Remigio, che è quella che sta dietro Via dei Neri. Ah. No, l'insaio e il cordone con cui si legava. Stanno peso. Lì in una teca. Con cui si appendeva. Con cui si è impiccato. Chissà cosa ci faceva. Chissà davvero. Chissà. A questo punto ci siamo? Dopo abbiamo detto questa sera di stronzate da qui poi non può che peggiorare. Quindi Rugge dimmi a che punto sei perché... Sono caldi, caldissimo. Ti sentiamo anche? Questo io proprio non credo. Mossi, forse sì. Mossi, ah, eccoti. Sentiamo anche con una voce molto calda. Oh yeah. E quindi niente. E quindi no, io coglierei l'occasione per andare a totalmente controcorrente e fare un brano molto depresso, molto triste, molto noioso e molto lamentoso. Sì. Però di un artista che mi sta piacendo moltissimo ultimamente, che è Bon Iver. O Bon Iver, non so bene come si pronuncia. Chissà che sa. Sono un gruppo statunitense, indie folk, il fondatore è Justin Vernon che canta questa canzone molto carina, però molto noiosa, quindi annoiatevi con noi. Viva! Up, falling on the fate of luck. Why? All our minutes ended. It was all. It would all be back. And the frost took up the eyes. Press against the pain. Can see the vein. There's a poison out. Resting in the lazy in the plains, you have a breath to shake. Searching for that inner cloud, may not take another double line. Only in the nail can feel the pain of a last pain. Grazie. Che bello, che meraviglia essere qua. Mamma. Veramente grazie. Sono molto convinto, molto contento, volevo dire, non convinto. Tornerai? Tornerai? Assolutamente. Ti giocherai tutte le ferie che non hai per venire. Assolutamente sì, Radio il primo lunedì libero da novembre, quindi peso. Peso, che... roba pesa. Un'altra chiedo. Attenzione. Da basso urlo. Guarda, c'è tempo, se c'hai voglia c'è tempo. Puoi pensarci un altro minuto. Infatti appunto da un sacco di lunedì io mi domandavo oggi mentre venivo qua, ma che lunedì prima che iniziasse questa bellissima avventura insieme a voi, cosa amici facevamo? Miei, che cazzo facevamo a quest'ora così? Cioè a un certo punto sì, ma prima oh, vabbè, è una vita che sembra fare questa cosa non e si... non finisce mai. Scusate, ma avete detto oggi siamo a 23? 24 come? Non l'abbiamo detto. C'è dai! Lo sai? Eh? Ce l'hai? Siamo 24. Oggi è 23. La puntata numero 23 però. Puntata numero 23. No, scusate, la puntata numero 22. Oggi è il 24 aprile. Sono un po' confuso perché sono stanco. Secondo me la puntata 23. Secondo allora, abbiamo detto finora la 22. Attenzione. Io penso che abbiate sbagliato. È panico assoluto. Aspetta. Io penso sia la 23. Intanto qui c'è un potrebbe dialogo essere la 23. Alle mie spalle. Allora ragazzi, secondo me Te la do uno, guarda. Io mi sa che, ragazzi, secondo me è la 22. La 22 è quella di oggi. La 21 era scorsa. Facciamo che non 22. Dai, scusate, 22. È 22 come? E no, a noi abbiamo detto, ce ne fottiamo. Ciao, allora, io Guido, sono 23 fanculo. Come? 23 è tuo e la prossima volta puoi fare. Bucio de culo. No. No. 22 come? 23 bucio de culo. 22 io non lo so. Le gambe delle donne, no, quella è 77. Le gambe delle donne. Cos'era? Bellissimo, non sappiamo 22 come, infatti per quello che non l'abbiamo detto, perché non c'è Guido, che è l'unico che sa gestire un po' questa faccenda. Certo, noi vero. Ci scappa di mano e poi diventa tipo fish quando lo tiri fuori. Scusa. Oh, noi comunque dopo questa 22 come il numero che di punti che ti serve per vincere una partita ping pong nei quale la quale si va in vantaggio. Perfetto. Ah. Eccolo. Bravo. Viva il ping pong e viva la Radio Wombat. Ma come te ne sei uscito, Agile? Bravo, sei stato. Mi è piaciuto. Potevo fare anche il numero di Michael Jordan meno uno. Però non è male. Allora. Così c'avevi anche quello per la settimana prossima, il numero di Michael Jordan, effetti. Ho scelto di usarlo per il 24, volendo. Il numero di no, Michael 24 Jordan è il numero di Kobe Bryant, attenzione. Ah. ma che si fa? Sembra 22 è il tasso, hai detto? Pazzo. Ah, il 22 è il numero del pazzo. Nella... Okay. Quindi adesso abbiamo, attenzione, un altro pezzo live. Oggi è più un concerto che una trasmissione radio. E salutiamo anche il tasso che ci ascolta sempre e, e niente, andiamo avanti con un'altra nuova canzone. Viva! I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep because my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real wire. Psycho killer, kiss kiss say. Run, run, run, run, run, run, run, run away. Whoa, oh, oh. Psycho killer, kiss kiss say. Run, run, run, run, run, run, run, run away. Whoa, oh, oh, oh. Ay, ay, ay, ay, ay. You start a conversation, you can't even finish it. You're talking a lot, but you're not saying anything. We have nothing to say, my lips are sealed. Say something once, but say it again. Psycho killer, kiss kiss say. Run, run, run, run, run, run, run, run away. Whoa, oh, oh. Psycho killer, kiss kiss say. Run, run, run, run, run, run, run away. Gioia infinita, ragazzi. Che puntata. Che puntata. che bello. Mo basta. Mo veramente. Mo veramente basta. Allora. Ragazzi, siamo praticamente arrivati alla fine, direi. Ci possiamo salutare. Io non manderei un'ultima canzone perché è stato bellissimo avere questi pezzi live qui con noi. Oppure, se avete un'opinione contraria, possiamo. Io sono d'accordissimo, okay, con Lorenzo. Ci facciamo festa, che ce lo meritiamo. E dopo di noi, alle 21, la revancia in diretta. Direttissima, sì. Domani, attenzione, rovescio della medaglia, un po' di palinsesto. Rovescio della medaglia, mercoledì alle 11 di mattina, Coccoli al silicio. E la sera alle 19, Soul Time e Slick Chick invece alle 21. Giovedì, l'Accademia della Brusca e 8 Hertz, attenzione, alle 19.30 e alle 21, in quest'ordine. E il venerdì, Mortal Wombat, ormai celeberrimo programma sul rap, alle 17 e alle 21.30 Uru. Il sabato si chiude con Tonight Live, sempre in diretta, alle 22.30. Tante repliche nel resto della settimana. E tantissime repliche. C'è la pagina Palinsesto che io sto leggendo in questo momento sul sito di Radio Wombat, che è wombat.noblogs.org. Noi ci salutiamo, ringrazio tutti tantissimo di essere stati qui con noi. Bacio, viva fuoco alle polveri, viva Radio Wombat. È un po' il nostro slogan. Ciao a tutti. Rimetta a posto la candela!